voce. Questa c'è una funzione nuova. Senti a tempo o senti la latenza? Thank you. figo. In tempo reale? Con quel microfonino attivato? Aspetta, ma io sono mono. Ora. Te mi senti stereo o mono? Sì. Che stai suonando quel microfonino giallo? Quello che lampeggia sulla sinistra. No, quello in basso, in alto. Thank you. dici? Io provo. Ah, provincia Firenze. Io Prato. Thank you.